invece il tailleur, ahimè, è fuori. Me ne farò una ragione. Insomma, come si dice, un classico andato in fumo. Esatto. In 20 giorni ho eliminato la nicotina e adesso è un anno che svaporo felice e senza nessun rimpianto per la vecchia pipa, tutto il suo pattume, zozzume, cenere, eccetera, eccetera. Affacciati alla finestra. Bella mia. Bella mia. Ta-tan. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Investire su un'idea di un giovane oggi è il migliore investimento sul futuro del nostro paese. Contro la disoccupazione giovanile, che è il tema principale sul quale io chiedo a Unicredit e alle banche, ai rappresentanti delle banche presenti, di considerarlo, dovendo fare una scelta, la grande priorità contro la quale battersi. Contro la disoccupazione giovanile. Dare un'opportunità. Dare un'opportunità. Buone notizie quindi per i giovani che restano a casa e per le loro famiglie, i giovani che restano a volte perché non se ne possono andare, a volte perché non se ne vogliono andare o che a casa devono tornare dopo che se ne sono andati per esperienze di studio o di lavoro. Sì, Deborah, insomma, sì. Letta ci ha tirato su. Tu tra l'altro c'eri. Io c'ero ieri, questo brano di Letta l'ho registrato io. E sperando naturalmente che questi suoi propositi si possano concretizzare, perché sappiamo che è un po' in bilico, anche lui sta forse perdendo il suo posto di lavoro, non vorrei stamattina tirargliela, però insomma ci sono un po' di dibattiti in corso, come sapete. Detto questo, torniamo al nostro tema. Gli ultimi dati Istat sul 2012, quindi neanche aggiornatissimi, sono molto preoccupanti, perché sono ormai 7 milioni i nostri giovani fra i 18 e i 34 anni che vivono ancora con i genitori. Sono 31.000 in più dell'anno precedente e sono più i maschi rispetto alle femmine. Oggi come oggi sono il 61,2% dei non sposati, quindi concretizzando 6 su 10. Insomma, si fa presto a dire bamboccioni, in verità la realtà è molto più variegata. Da noi li hanno battezzati bamboccioni, ma si è parlato anche di ciusi, schizzinosi. In Inghilterra li chiamano keepers, in Germania nest hawkers, mentre in Giappone sono i parasaito shinguru. Stando ai risultati di una ricerca avviata nel 2012 dall'Istituto Giuseppe Toniolo, oltre 2 milioni di giovani sotto i 30 anni nel nostro paese non studiano né lavorano. Di questi, il 13% getta la spugna e afferma che il lavoro non lo sta neanche cercando. Il restante 87% non si arrende, ma con diverse sfumature. C'è chi cerca attivamente un posto e chi dichiara di essere alla ricerca, ma in modo sempre meno convinto. Senza dimenticare che più del 70% di chi esce una prima volta di casa per lavoro o studio, poi deve fare marcia indietro. L'ammortizzatore sociale più efficace, neanche a dirlo, resta sempre la famiglia. E allora, conoscete qualcuno che rientra in questi profili che abbiamo delineato? È vostro figlio? Siete voi? È un collega di università, magari un amico al quale dovete dare in questo periodo, per questa difficoltà, un incoraggiamento? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Sì, vi invitiamo proprio a raccontarci se siete rimasti a casa o se ci siete tornati, o se a farlo sono i vostri figli per ragioni di cuore o di denari. 349 238 6666, stanno già arrivando i messaggi, come sempre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter, perché oggi cercheremo di fornirvi qualche via d'uscita concreta. Forse non riusciremo a trovare il lavoro per voi o per vostro figlio, ma vi daremo delle idee su come e dove cercarlo. Salva Danaio. Andiamo a lavorare, ci aiuterà a farlo, speriamo, con qualche bel suggerimento concreto, Antonio Bonardo, un ritorno a Cuore Denari, è responsabile dei rapporti istituzionali di G-Group, una grande agenzia per il lavoro che con i giovani che cercano occupazione ha a che fare ogni giorno. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Quanti giovani avete sistemato nell'ultimo mese, più uomini o più donne? E in che fascia d'età? Come sta andando? Sì, allora, nell'ultimo mese abbiamo dato lavoro complessivamente in Italia a 10.600 persone. Di questi, 3.700 hanno meno di 25 anni e 6.900 hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. Dal punto di vista della distribuzione uomini-donne sono il 55% uomini, quindi circa 5.800, e il 45% sono donne. Abbiamo dato lavoro, nel senso che non li avete assunti tutti voi, ma avete intermediato naturalmente la domanda e l'offerta sul mercato. Beh, di fatto li abbiamo assunti noi, perché essendo noi un'agenzia per il lavoro, noi di fatto li assumiamo, certo, e poi li collochiamo in affitto, diciamo, come si diceva una volta, adesso si chiama lavoro in somministrazione, presso i nostri clienti. E quindi, poi successivamente ci sono dei casi in cui questi rapporti di lavoro con certe aziende si trasformano in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e si distaccano da voi? Sì, sì, sì. Il dato adesso recentemente si è un po' abbassato, ma è sempre stato attorno al 35-40% delle missioni che di fatto utilizzavano la modalità del lavoro interinale come periodo di come passaggio, modalità insomma, di selezione, e poi come periodo di prova per poi stabilizzarli al termine della missione. Quindi è un ottimo canale per l'ingresso al mercato del lavoro. Li chiamano in tanti modi, l'abbiamo sentito dalla nostra scheda, bamboccioni da noi, keepers in Inghilterra, dicono appunto che sono troppo chiusi, ma questo è quello che c'è scritto sulla confezione, mi lasci dire, è il marchio. Gli esperti invece ci insegnano a leggere sempre l'etichetta per vedere gli ingredienti, quindi io la invito ad analizzare il prodotto bamboccione come se fosse un prodotto che vogliamo acquistare e portare a casa, a tavola, conoscendone quindi il contenuto e le caratteristiche. Iniziamo con quelle più buone. Ci dice tre pregi di questa generazione che è sempre un po' bistrattata, per come la vede lei, naturalmente, che con i giovani comunque ha a che fare quotidianamente, immagino. Sì, beh, intanto noi abbiamo a che fare con i giovani che ovviamente sono proattivi, cioè sono quelli che si muovono per cercare il lavoro, tant'è che vengono nelle nostre agenzie e quindi denotano una presa d'iniziativa, no, sulla loro vita. Allora, sicuramente questo, diciamo, questo target di popolazione che noi vediamo, posso dire che sono sicuramente intraprendenti, perché molta parte di questi giovani hanno esperienze di lavoro già fatte in precedenza, magari stage, e anche vediamo che si sta diffondendo lo stage curriculare, perché oggi molte scuole tecniche soprattutto cercano di fare stage estivi di alternanza, oppure lo mettono come crediti formativi obbligatori all'interno del percorso di laurea. Quindi questo è un dato sicuramente positivo, e d'altro canto notiamo che, questo lo vediamo più invece dalle analisi che vengono fatte, che il fatto della crisi sta anche sviluppando l'intraprendenza verso attività di lavoro autonomo. Sì. Quindi lavori artigianali, anche lavoro. Esatto, nei giorni scorsi ci sono stati dei dati proprio sull'aumento molto vistoso dell'apertura di partite IVA nel nostro paese, evidentemente direttamente collegato appunto a questo discorso. Abbiamo dato tutte le qualifiche intraprendenti. Intraprendenza, poi la determinazione, perché essendo che c'è meno opportunità, c'è molta più grinta nel correre, e i miei colleghi che lavorano più sull'attività di selezione mi dicono soprattutto le donne e persone che vivono al sud, che dimostrano quando si muovono questo tipo di siamo sempre lì sullo scontato, e noi siamo entrambe un po' del sud, e quindi io ho mezzo sangue del sud, io sono marchigiana, e tutti mi dicono che sotto il Po tutto è, ecco, quindi io arrivo anch'io nelle Marche mescolando il sangue siciliano con quello ligure-piemontese, arriverò lì. Esatto. E andiamo a Pescara, c'è Silvio che ci chiama all'800240024. Buongiorno. Buongiorno Silvio, benvenuto. Volevo parlare della mia esperienza di genitore. Eccolo. Dunque, io ho avuto, per quanto riguarda mio figlio, oggi ha 28 anni, ha fatto sempre delle scelte positive quando andava a scuola, e io ho cercato sempre di assecondarlo, e tutt'oggi per averlo lasciato stare e dargli fiducia, e oggi mi ha ripagato. Oggi lui è un giornalista, un vostro collega, parla parecchie lingue, ha 28 anni, è stato uno dei primi giornalisti di scuola formatosi lì a Perugia, con un master, parla parecchie lingue, e oggi sono soddisfatto. Tutti i premi che ha preso, e mi rende felice. Certo. E io voglio trasmettere la mia esperienza a tutti quei genitori che non ce la fanno, ma di perseverare sempre, che sicuramente I figlioli pian piano risolveranno il loro problema. Insomma, Silvio dice sosteniamoli questi ragazzi. Però insomma il suo ragazzo, idee molto chiare sin da quando andava a scuola. Anche questa naturalmente immagino sia una qualità, no? Molto importante. Bonardo, che ne pensa? Sì, la determinazione, sì, l'intraprendenza, sì, che sì, lei sì, sì, sì, diceva assolutamente, prima. Assolutamente. Allora, invece, dopo aver elencato i pregi di questa generazione un po' bistrattata, come purtroppo ci capita di doverla definire, se dovessimo indicare i tre errori, Bonardo, che a suo parere invece i ragazzi compiono, quelli che purtroppo ancora si meritano la definizione di bamboccione. Sì, allora, i tre errori che noi vediamo più spesso in ambito di selezione sono, da un lato, una ingenuità quando si presentano al colloquio, cioè magari non riescono a distinguere che comunque, anche se il selezionatore si pone in modalità informale, talvolta lo fa proprio per riuscire a mettere a loro prova, agio da un lato, ma mettere alla prova e carpire anche informazioni che uno in un momento di selezione dovrebbe essere attento nel distribuire o meno. Per cui casi in cui uno dice ma no, questo lavoro non fa assolutamente per me, non si dovrebbe dire in un momento di selezione. Ce le dica tutte. Quindi ingenuità. La seconda, invece, secondo errore, è quello quando gli viene chiesto ma tu cosa vorresti fare? Qualsiasi cosa. Ecco, dichiararsi pronti a tutto, perché un conto va bene essere flessibili e dimostrarsi, però il selezionatore ci si aspetta che al termine di un percorso di studi sia maturata un'idea di sé, un'ipotesi almeno da cui partire, poi può essere che sia sbagliata, che nella realtà uno vada meglio per altro, ma esprimere un'idea piuttosto che dichiararsi qualsiasi cosa. Ma è un problema di linguaggio, secondo lei? Cioè è meglio che dicano sono flessibile o ed è sbagliato dire sono pronto a tutto? È anche una questione appunto di linguaggio proprio. Sì, e se io le dicessi, però non ho più l'età, mi piacerebbe, però nell'attesa sono pronta anche. Sì, potrei anche accettare volendo arrivare là. Sì, a percorsi un po' anche differenti che mi possano portare comunque a maturare un'esperienza. Esattamente. Quindi possiamo. Esattamente. Ok, ho capito. E il terzo errore. Perché io passo a casa e anche voi da genitori, ecco, noi prendiamo appunti, perché se i nostri bamboccion sono adesso fuori in cerca di lavoro, tornati a casa e diciamo sentito a cuore denari hai detto quando ti hanno. Ecco, e la terza è, invece, ci possono essere situazioni in cui il selezionatore magari è un po' duro, un po' aggressivo, ma dobbiamo sempre considerare non scoppiare in lacrime davanti appunto, al colloquio, che è un colloquio, non è una valutazione personale. O se io non vado bene per quel tipo di lavoro, non è che io sono da buttare via, semplicemente il selezionatore o l'azienda ha valutato che le mie caratteristiche non come si dice in gergo, non fittavano, cioè non erano in linea. Come si dice? Non fittavano, non erano fit. Vedi, quante cose impariamo ogni giorno. Dovremmo fare il piccolo vocabolario di Cuore e Denari con tutti i termini nuovi che ci capita di... Bello. Così, un po', esatto, con i quali ci capita di incontrarci, di scontrarci, insomma. Giorno andiamo, dopo giorno. Andiamo a Monza, andiamo da Alex. Buongiorno. Alex, buongiorno. Eccoci a lei. È un piacere. Concordo pienamente con quanto è stato appena detto. Volevo appunto aggiungere, nella mia esperienza, io lavoro per un'agenzia per il lavoro, che oltretutto bisogna tenere presente che i disoccupati di oggi, nelle fasce d'età indicate, un giorno avranno a loro volta una famiglia, ma non potranno offrire l'assistenza che la loro famiglia oggi gli sta offrendo. Quindi il problema sarà generazionale, tra 5-10 anni il sistema Italia rischia di essere in crisi, perché questo è un paese in cui la disoccupazione giovanile sì è importante, ma teniamo presente che abbiamo oltre 20 milioni di over 45, questo ed è il paese più vecchio d'Europa e uno dei più vecchi del mondo, quindi il nostro welfare non potrà reggere questo peso se loro non troveranno un lavoro tra virgolette adatto alle loro capacità, ma che sia anche coerente con le richieste del mercato. Quali sono, Alex, adesso? Ci dia un po' qualche indicazione magari per chi da Monza la sta ascoltando e oggi vuole venire a trovarla, no? Certo, guardi, esiste, è molto meglio avere un diploma forte in mano, come è ancora oggi una ragioneria o un diploma tecnico, che apprendere una laurea qualsiasi. Non me ne vogliano i laureati in comunicazione o altre materie similari, però Monza e Milano stessa non è New York. Dobbiamo confrontarci con un mercato fatto da piccole e medie imprese, da PMI, che sono l'ossatura del paese con oltre l'85%, e queste aziende arrivano ad avere anche soltanto 5 dipendenti. Quindi nella zona di Monza e Brianza, che è comunque uno dei cuori produttivi del paese, certamente la richiesta di ottime figure contabili con un background di ragioneria e magari una laurea in economia è sicuramente molto ricercata. Lo stesso dicesi di figure però tecniche da inserire all'interno del comparto produttivo. Alex, la ringraziamo molto per questa sua concretezza, soprattutto nella sua partecipazione appunto al nostro programma, Nicoletta. E vi invitiamo come sempre a chiamarci 800 24 00 24 e a confrontarvi con noi. Voi e i vostri figli, di fronte a quale ostacolo vi state scontrando? Siete disposti ad accettare tutto? O solo quello per cui avete studiato, oppure il lavoro c'è? L'avete trovato, ma ritenete di non guadagnare abbastanza per essere autonomi, e devo dire che questo è anche un punto, se hai notato Nicoletta, che sul quale si stanno soffermando molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Adesso sono andata troppo veloce, ma volevo proprio dar voce ad un ascoltatore che ci scrive: ecco qua, mio figlio lavora già da qualche anno, è Clelia, ma i bassi stipendi non consentono di andare a vivere da soli, soprattutto in città come Roma, in cui gli affitti sono carissimi anche adesso con tutta la crisi. Allora, se vi è capitato anche di capire che il vostro percorso di studi è quasi inadeguato, perché magari avete scelto un percorso che per cui non c'è mercato, oppure vi stanno dicendo che avete studiato però vi manca l'esperienza, oppure avete tante esperienze ma mi dicono che manca un pezzo di carta, insomma sembra che questa coperta sia troppo corta. 800 24 00 24, ne parliamo anche nel corso della nostra trasmissione, perché oggi ci sono anche tanti ragazzi che avrebbero la possibilità di un lavoro, ma in qualche modo sono trattenuti a casa perché i denari contano, ma anche il cuore, insomma le relazioni familiari a volte diventano dei lacci, dei legacci molto forti. No, tenghi tutto quello che vuoi, ma questo no, non mi puoi chiedere una cosa simile. Mamma. No, no, no. Mamma. Nonno, tuo padre la prenderà malissimo. Ma io non sono fatta per vivere da solo. Non so cucinare, non so fare le pulizie, le bollette non le capisco. E poi questa casa è piccola. Non sono pronto psicologicamente. Ho paura. E voi mi mancate. Fatemi tornare a casa, sennò... Mamma. Sì, sì, sono qui, aspetta un secondo. Passamelo. Basta con queste cazzate! Tanguy, non me lo ricordavo. È un divertentissimo film francese che ai tempi fece anche molto discutere. Si trattava forse della prima storia che raccontava in modo molto originale il prototipo del bamboccione. Di lui parliamo col professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, che non ha più l'età per essere un bamboccione, ma che è impegnato per evitare di crescere quattro bamboccioni, perché ne ha ben quattro. Che ciao, bella, Alberto. Che bella sfida. Ciao, Alberto. A tutti, buongiorno. Buongiorno. Alberto, dati pubblicati ieri, apparsi oggi, insomma, sono freschi freschi, come si dice, noi cuciniamo sempre, quello che il mercato ci dà, le primizie. Anche perché parliamo anche di mangiare spesso, per cui gli ingredienti devono essere sempre ineccepibili. Ci dicono che un giovane su tre ha come figura di riferimento la mamma. Alberto. Sì. Sì, io credo che questo è proprio un po' il dato che poi fa parlare di bamboccioni. La mamma nella coppia genitoriale è quella che fornisce il senso di protezione e sicurezza, cioè è quella che in qualche modo tiene fermi dentro un abbraccio che fa stare bene nella protezione dell'amore e delle mura domestiche. Il papà di solito è invece quello che regala un paio d'ali, no? Cioè il soggetto che favorisce l'esplorazione e l'ingresso sul mondo. Avere come riferimento forte, quasi esclusivo, la mamma significa avere un bisogno forte, prima di tutto nella vita, di essere al sicuro, al calduccio, protetti, e questo diventa un limite significativo in una zona dell'esistenza che è quella della ricerca del lavoro e in realtà dell'individuazione di un proprio ruolo sociale e professionale, che invece deve essere proprio un mestiere da esploratore. E su questo i papà dovrebbero essere in qualche modo più forti, più competenti a portare in famiglia un modello che spinge a cercare il senso di sé, il significato di sé, non solo dentro le mura domestiche. Intanto, guarda, pur avendo cresciuto due figlie molto indipendenti, intraprendenti e tutt'altro che ingenue, la Nicoletta se la gongola con queste affermazioni. Alberto, io vorrei anche capire a che punto sta la zia in questa classifica che abbiamo delineato. Ma chiusa questa parentesi, la mamma è la persona per la quale è più facile confrontarsi, no? Per parlare di sé, meglio forse di amici o fidanzati, ma è anche più vicina rispetto alla figura del papà, punto di riferimento solo per il 9% dei giovani, e questo è quanto emerge da un'inchiesta realizzata nell'ambito del rapporto giovani nella ricerca dell'Istituto Giuseppe Toniolo proprio sui giovani dai 18 ai 30 anni. Alberto, la mamma è sempre la mamma, e anche se è la figura di riferimento, adesso non possiamo neanche però darle tutta la colpa se i figli non escono di casa, no? Oppure le mamme che hanno a casa figli grandi dovrebbero provare a farsela questa domanda, chiederselo, perché la dipendenza psicologica è sottile e spesso difficile da riconoscere ed accettare. Quindi, dovendoti rivolgere alle mamme all'ascolto, e quindi anche a me, quale pulce nell'orecchio metteresti per aiutarci a capire se effettivamente questi figli con dei, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma con dei ricatti psicologici in qualche modo, o miniamo la loro autostima o li teniamo troppo attaccati alle nostre gonne? Ma guarda, io direi che in casa dovremmo osservare, quando abbiamo figli che ancora non hanno fatto il grande salto, uno, qual è il livello di lamentosità, per esempio, del figlio, che diventa automaticamente un laccio che blocca la mamma poi in un meccanismo di protezione. C'è un figlio che anche che non sta trovando un lavoro, è chiaro che si lamenta, ma deve però far coprire quella lamentosità con una forte intraprendenza e ricerca attiva. Quindi sì, direi poi che le mamme dovrebbero osservare qual è il livello di attività di un figlio dentro casa, perché spesso un figlio poi rimane seduto, si fa servire e riverire, e questa allora è poi la terza variabile che diciamo alle mamme: quanto le mamme stanno trattando il loro figlio grande esattamente come lo trattavano quando era un bambino. Posso raccontare, Alberto, che mi hai fatto fare un tuffo nel passato pazzesco, perché sono arrivata a Milano nel 97, avevo 28 anni, quindi tutti hanno fatto i calcoli sulla mia età. Il primo anno è stato molto duro con Milano, io tornavo nelle Marche quasi tutti i fine settimana, anzi non quasi, tutti, e tutte le volte che dovevo ripartire era sempre una tragedia. Mia madre: dai dai, su, forza, vai, vai. Che devi, dai, che c'è il lavoro, vai. Non ci fosse stata una volta che mi ha detto: oh, rimani qua, delle belle teglia di Vinci Sgrassi, e via a Milano a lavorare. Arrivederci e grazie. Alberto, lo risentiremo intorno a mezzogiorno, perché se siete le mamme che poi magari questi figli li avete spinti fuori dal nido, ma adesso ne sentite la mancanza, soffrite di quella che si chiama sindrome del nido vuoto, che noi auguriamo che di provarla in tante, chiamateci perché ci saranno dei consigli. Grazie Alberto. A dopo. Cuore e denari. Il bagno è stato appena ristrutturato. Sì. Qui abbiamo l'ampio ingresso e di qua c'è la camera da letto. Come vede, è luminosissima. Si trasferisce a Roma? No, veramente abito già in zona. Si sta per sposare? No. Va a convivere? No, veramente non sono neanche fidanzato. La casa è per me. Sa, vivo ancora con i miei genitori ed è decisamente arrivato il momento di andare via. No, dico, ci ha pensato bene ad andare via di casa così, senza un motivo? Senza un motivo, c'ho quasi 35 anni. E che significa? No, lei mi deve dire dove sta scritto che uno a 35 anni deve andare via di casa. Dove sta scritto? Dove l'ha letto lei? Da nessuna parte, non si innervosisca. No, mi innervosisco. Quando sento certe cazzate mi innervosisco. Si calmi. Eccoci, siamo tornati dal film Immaturi, e quindi se avete tra i 18 e i 34 anni, se state cercando casa e ci state ascoltando, magari da casa invece dei vostri genitori, dove vivete, raccontateci che cosa vi impedisce di uscire di casa, di spiccare il volo. Le ragioni per cui siete ancora con mamma e papà sono ragioni di cuore o di denari? 800 24 00 24. E intanto la cronaca ci aiuta ad animare un po' il nostro programma, perché quello che sta succedendo in questi minuti a Palazzo Chigi a Roma cade a fagiolo nel nostro programma, perché ecco, adesso Sky ha tolto l'indicazione, però praticamente Re Letta è giunta a Palazzo Chigi ed è Renzi è giunta a Palazzo Chigi ed è a colloquio con Letta. Quindi anche lui, il colloquio, sempre un colloquio. Oggi parleremo proprio di colloqui, ma quando uno si siede davanti a un interlocutore è sempre molto emozionato. Bonardo. Sì, qui bisognerebbe capire chi sta facendo il colloquio a chi, cioè chi è selezionatore. Esatto, magari lanciamo un po' anche questa provocazione ai nostri ascoltatori. Assolutamente. È Renzi che interroga Letta o Letta che interroga Renzi? Che cosa starà succedendo a Palazzo Chigi in questi minuti? Scrivetecelo al 349-238-6666, il sondaggio di quotidiano di Cuore e Denari. Magari li facciamo divertire con Twitter con 140 caratteri. Detto questo, noi oggi vi daremo anche delle indicazioni concrete, lo stiamo facendo soprattutto aiutati dalle esperienze degli ascoltatori che ci stanno chiamando, per provare ad uscire di casa o per far sì, e parlo naturalmente ai genitori all'ascolto, che i vostri figli possano farlo. Intanto sentiamo i nostri ascoltatori, subito. Ma vogliamo chiedere al nostro esperto di darci poi dei consigli concreti per i profili differenti che abbiamo un po' tratteggiato di questo universo di ragazzi che restano a casa, di chi è ancora a casa perché il lavoro non l'ha ancora trovato, di chi invece il lavoro ce l'ha però i denari non sono quelli che si aspetta, e invece di chi è andato fuori di casa perché è andato a studiare, a fare uno stage, un corso, e ha dovuto poi a casa ritornare proprio perché magari questa esperienza era finita. Quindi si prepari, ma intanto ci prepariamo a dare indicazioni e risposte ai nostri ascoltatori. Angela, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, Angela. Ci racconti allora, tutto. Sì, io sono una mamma di 64 anni e ho una figlia laureata regolarmente, a pieni voti, eccetera, nel 2008, ma ancora non è riuscita a sistemarsi nell'ambito del lavoro perché nell'80% dei casi, quando fa queste ricerche di lavoro, le faccio anch'io per lei molto spesso, ci ritroviamo di fronte ad aziende che chiedono sempre solo un minimo di esperienza alle spalle di 2 anni. La domanda che io faccio, e che mi augurerei che in un qualche modo venisse un attimino diffusa: perché questo? Cioè, i giovani che escono dalle università è evidente che non hanno esperienza alcuna. Cioè, dovrebbero... Sì, abbiamo quindi capito, Angela, però la sua figlia, ci mancano due dettagli. Allora, sua figlia però ha 32 anni, quindi esatto, è da quanti anni che è laureata? Immagino, è laureata 8, no? Dal 2008 è laureata in economia e finanza internazionale. Ecco, e mi ha dato la risposta anche alla domanda che avrei voluto farla, quindi laureata in economia. Ma come capita, tanto studio ma poca esperienza. Ma li scartate tutti, Bonardo, quelli che non hanno minimamente esperienza? Il candidato fresco di laurea, appunto, non lo prendete in considerazione per proporlo all'azienda? Beh, no, perché ci sono gli stage. Per chi non ha mai fatto, appunto, esperienze lavorative, in questi anni si sono diffusi molto gli stage che consentono chiaramente all'azienda di avere un costo contenuto e di conseguenza la persona di entrare, di poter fare quel minimo di percorso di esperienza che gli consenta poi di accrescere e di andare verso l'alto proprietà. 32 quindi, anni è troppo tardi per lo stage? Per lo stage purtroppo per la legge siamo fuori, perché lo stage viene consentito fino ai 29 anni. Anzi, adesso con le modifiche che sono state fatte l'anno scorso si possono fare solo entro il primo anno dal termine del titolo di studio. Quindi la figlia di Angela che cosa deve fare? Ma la figlia conosce bene le lingue? È laureata in economia e finanza internazionale. Angela, l'abbiamo persa? Immaginiamo di sì. Quindi? Immaginiamo che lo sia, che le conosca. Sì, ma vorrei capire appunto come si sta muovendo, perché per esempio non so se ha provato il canale delle agenzie per il lavoro, se magari lei si è sempre rivolta direttamente alle aziende diciamo finali e non è passata magari per gli intermediari che la possono aiutare e orientare a magari esperienze più brevi, come può essere un lavoro anche interinale, che però le consenta di maturare. Di partire, e l'altra cosa le direi di non essere rigida, perché magari lei vuol fare un lavoro che sia coerente, però anche prendere un'opportunità in un call center, mi viene da dire, in questo momento per lei può già essere la possibilità di entrare comunque in un contesto aziendale, di maturare delle esperienze e una volta che è dentro l'azienda anche di... Ecco, perché fa è peggio stare a casa senza fare nulla, oltre al problema economico, anche per il tuo futuro esaminatore. L'idea di dire, vabbè, io sono laureata in economia, nel frattempo ho lavorato in un call center, ho lavorato in una panetteria, sono andata a fare uno aiuta di più, sì, perché comunque dà l'idea di una persona intraprendente e che ha fatto qualcosa nel frattempo. Claudio, buongiorno da Pistoia e poi subito dopo Marco da Alessandria. Li abbiniamo tutti insieme, dai. Guarda. E poi anche Vincenzo da Napoli e poi anche Salvatore da Bologna. Chi più ne ha più ne metta. Claudio, buongiorno. Claudio. Buongiorno. Noi ci siamo già conosciuti quando mio figlio un sabato, quando parlavate di salute, aveva contratto il diabete e vi telefonai. Ah, sì. E diciamo che questo carattere, questa malattia l'ha formato molto nel carattere, nella crescita. Sì. Ora, immaginiamo. Lui poi stava frequentando un istituto professionale di prestigio a Prato, sì. L'anno scorso si è diplomato con 92 su 100 e è stato chiamato dopo un mese a lavorare nel suo settore, il bello è questo. Che fortuna, bello, sono contenta. Fortuna, era al mare, venne via dal mare, lasciò le vacanze, andò a fare il colloquio perché disse meglio andare a perdere le ferie. E poi a settembre è stato assunto con un contratto interessante di apprendistato, perciò buon stipendio. Siamo molto soddisfatti e adesso sta pensando appunto a alzare il volo. Molto deve ringraziare anche aver trovato la ragazza, lo dico io. Bravo, ma Claudio, ma lei come mi rende ma contenta? Che ometto che ha formato. Vedi, ma senti tu. Perché ha trovato la ragazza e questo anche aiuta a avere il cuore. È partito dal diabete, ma qua è la donna che ha fatto la differenza. Altro quindi Claudio, la sua è un'esperienza positiva che mi piacerebbe commentare con Antonio Bonardo, sta facendo quindi questa esperienza. Lei che consiglio darebbe al figlio di Claudio dato che ha iniziato con un passo già, no? Con un bel ritmo per andare spedito? Sì, allora sicuramente è lì dov'è, è mettersi sempre in luce, perché le prime opportunità uno può averle là dove sta lavorando. In secondo luogo, se lì non ci fossero opportunità che gli consentano questo, di fare accanto al suo lavoro quotidiano, che è appunto il suo lavoro, di fare il lavoro di cambiare il lavoro, cioè di cercarsi un altro lavoro, che è un lavoro. Quindi di non farsi assorbire al 100% da quello che fa, ma lasciarsi un po' di spazio alla sera, nel weekend, per pensare come rivendersi, dove rivendersi e quali possono essere i canali che lo aiutano. Quindi rizzare le antenne senza trascurare troppo l'amorosa. Non adagiarsi, non sedersi sugli allori, come si dice. No, perché io sai che mi avventuro sempre in questi proverbi e poi li sbaglio sempre. Sì, andiamo ad Alessandria. Sì, c'è Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno a tutti. Io volevo intervenire per dire che io sono dovuto tornare dai miei genitori. Non, fortunatamente il lavoro l'ho sempre avuto, ma a causa di un matrimonio non è andato bene. E poi volevo dire una cosa per quanto riguarda le cooperative, e parlo per la mia esperienza lavorativa nella fabbrichetta dove lavoro io, che secondo me non dovrebbero esistere queste cooperative, perché purtroppo chi lavora in un interinale lavora un mese, 15 giorni, una settimana, oppure lavora anche anni e poi magari non viene nemmeno assunto. Io parlo per l'esperienza che ho nella fabbrica dove lavoro io. Fortunatamente in questi anni non abbiamo patito la crisi e abbiamo cosa fate voi? Che cosa producete? Facciamo cartone, scatoloni di cartone per Ferrero, Saiba, imballaggi. Sì, vanno bene. E fortunatamente lavoriamo sempre e abbiamo del lavoro in più. Facciamo delle ore di straordinario. Lei quanti anni ha, Marco? 43, quindi è già fuori anche un po' dell'età però anche Marco, per ragioni di cuore, ha dovuto tornare a vivere con i genitori e non è facile. No, per niente. Marco, buona fortuna. Grazie, poi magari se ce la facciamo un microscopico focus sul tema della cooperativa lo faremo. Cuore e denari. Abbiamo iniziato con una buona notizia, almeno una buona intenzione, quella del Presidente del Consiglio Letta, che ieri ha ripetuto che il suo governo ha come obiettivo un rilancio della crescita in cui aumentino anche i posti di lavoro. Anime nostre, speriamo che questo governo regga, ma non lo so cosa succede in queste ore, però Una buona notizia ce l'abbiamo anche dall'Europa, perché si tratta di denari e tanti denari, 1,5 miliardi di euro per il biennio 2014-2015, che punta ad assicurare ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento negli studi, apprendistato, tirocinio o un'altra misura di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema scolastico. Il programma si chiama Garanzia Giovani, una garanzia di nome e di fatto. Antonio Bonardo, torniamo da lei. Sì, beh, l'idea è quella appunto che la garanzia consista nel servizio di presa in carico del giovane, di orientamento, di accompagnamento personale, e che sfoci in un risultato, quindi non sia fine a se stesso ma sfoci in un risultato. Mm-hmm. Quindi questo è molto importante, perché per la prima volta in Italia si ragiona in termini di politiche attive sistematiche, mm-hmm, su un target di popolazione, non solo di sussidi passivi, certo, eccetera. Quindi è un'opportunità davvero grande. Ci auguriamo che effettivamente si riesca a entrare in partita il prima possibile. Andiamo agli ascoltatori ancora, Nicoletta. Direi che oggi, sì, è bene prendere tutte le testimonianze possibili. Leggeremo poi alcuni messaggi, esatto, di ragazzi, sì, giovani che ci stanno raccontando la loro esperienza. Molti, sì, sullo stage, molti lamentano che si chiedono se sia un'opportunità o uno sfruttamento, mm-hmm, perché la retribuzione è davvero un po' risicata. Sì, chiaramente la retribuzione... Mi segnalano 4 euro all'ora? Più o meno, perché diciamo le regioni hanno fissato delle retribuzioni minime che variano tra i 300 e i 600 euro al mese, no? Per esempio la Lombardia mi pare che abbia fissato 400 euro al mese come standard minimo, e più o meno le aziende si attestano, certo, lì. E questo, diciamo, la logica è che dovrebbe essere un periodo appunto dove l'azienda non solo dà dei pochi soldi ma investe in formazione, quindi innalza le competenze, aiuta la persona a strutturarsi per cercare poi le vere opportunità di lavoro. Quindi questa, mm-hmm, sarebbe la logica. Mm-hmm. Alessandro da Padova ci scrive: follia, uno si fa 5 anni di studi universitari e per entrare nel mondo del lavoro deve fare l'operatore di call center. Le aziende si devono mettere in testa che devono investire sulle persone, paghi stipendi bassi per assumere una persona senza esperienza, investi in formazione, vuoi uno con esperienza, allora lo devi pagare. Questo è un po' un messaggio che ritorna, un concetto che ritorna nei vari messaggi. Andrei da Aldo, che ci chiama da Milano. Aldo, Aldo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti. Il nido è vuoto, ahimè. Com'è, Aldo? Allora, si è contenti, ma mancano, eh? Mancano molto, anche perché una delle due figlie, quella di cui voglio raccontare l'esperienza, essendo chiusi, ha dovuto adattarsi, vive e lavora a Shanghai da sola a 26 anni. Ma lì c'è il futuro del mondo, Aldo. Comunque, perché lei dice, si è adattata? Pechino è una straordinaria opportunità. Perché? Certo, certo. Ma comunque la cosa che diciamo mi ha un po' colpito, no? Anche se sentendo le parole del nostro bene amato primo ministro, mia figlia aveva fatto uno stage vincendo un concorso all'ambasciata italiana di Pechino di 6 mesi, pagata 0 euro. Eccolo là. E tutte le spese, appartamento, volo e quant'altro. Ha pagato il signor Aldo. Esatto. Diciamo che poi è stata un'ottima opportunità, perché certo, poi ha avuto la possibilità di trovare un'azienda italiana a Shanghai, non faccio il nome per non far pubblicità, che l'ha tenuta stretta. Però anche questa azienda non l'ha assunta in Italia, ma assunta nella consociata cinese, quindi dal punto di vista contributivo e previdenziale equivale a zero. Allora, però cerchiamo di vederla, come dire, dal lato positivo, perché in una città come questa è, io credo, una straordinaria opportunità che sono certa si potrà spendere per il futuro professionale, la figlia di Aldo. Detto questo, io ho cominciato a lavorare tanti anni fa, ma non è che mi pagassero granché all'inizio, non è che ho cominciato e subito qua erano pronte le aziende a staccare assegni, ho fatto anche tanto altro. Nicoletta, non so la tua esperienza, ma è uguale. Uscita dall'università sei subito andata... Però avevamo intorno un clima diverso, meno pessimista, meno negativo, sì. Invece i giovani adesso sono proprio immersi, no, in questa atmosfera di crisi, non vedono il loro futuro positivo, e anche noi adulti cerchiamo di renderglielo ancora più nero, anche con messaggi, insomma noi eravamo più ottimisti, avevamo diverso, anche sì, quasi, non dico la certezza, ma insomma pensavamo che preparati e con voglia di lavorare si potesse andare avanti. Andiamo avanti anche noi? Andiamo avanti anche noi. Magari possiamo salutare, vedi, l'ospite sulla linea 2, così sì. Sta lì. So che ci avrà ascoltato molto volentieri, però salutiamo Paolo Reboani, presidente di Italia Lavoro. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Italia Lavoro è un'agenzia, chiamiamola così, una società che fa capo al Ministero del Lavoro e che si occupa proprio di implementare, no, le politiche del lavoro, soprattutto rivolte alla fascia di cui stiamo parlando questa mattina, presidente. Esatto, ma noi lavoriamo certamente per aiutare le regioni e il governo normalmente a sperimentare nuove politiche che possano offrire sia ai giovani che ai meno giovani, in questo caso i giovani ovviamente, la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. Il commento che mi veniva da fare rispetto a quello che dicevate voi prima sui giovani e sugli stage eccetera è che forse, avendo cominciato anch'io con qualche stage, avevamo non solo più speranza ma anche un pochino più fame di quella che hanno molti giovani oggi. E questa è una bella lettura che ci dà il presidente Reboani, con cui parleremo della famosa impara l'arte, mettila da parte, un'iniziativa veramente interessante appunto che questa società fa. Ma se ha pazienza, Reboani, la trasferiamo a questo punto alla seconda parte del programma, ma non la facciamo aspettare più di 10 minuti. Mettiamo altro fieno in cascina, Nicoletta, con altre testimonianze dei nostri ascoltatori. C'è forse Vincenzo da Napoli che aspetta da un po'. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma l'abbiamo fatta aspettare, Vincenzo, da Napoli. È stata una piacevolissima attesa. Ottimo. Buongiorno, grazie. Ascolti, io spero di avere il dono della sintesi, perché il mio quesito è un po' articolato. Saluto il presidente Reboani, sono un conoscitore di Italia Lavoro, conosco il dottor Raccuglia, grande imprese sul territorio. A 50 secondi, Vincenzo, vada. Perfetto, allora ascolti, situazione di famiglia, figlio che si diploma, moglie casalinga, sogno dell'università, padre lavoratore, indirizza il figlio verso uno stage, 2 mesi di aula, 6 mesi on training retribuiti, 800 euro lorde mese, 30 posti, mio figlio è riuscito ad entrare in uno dei 30 posti. Io vorrei sapere da voi se aveva ragione la moglie e doveva andare all'università, se aveva ragione il papà e doveva fare... Questo non potremo mai saperlo perché l'università non l'ha fatta, però possiamo immaginare il futuro del figlio di Vincenzo. Gli auguriamo comunque un'ottima fortuna. Grazie a Vincenzo, noi andiamo a sentire il nostro GR. Chissà com'è andato il colloquio di lavoro fra i due lì, va? E chi dei due fa il colloquio? Continuate a scrivercelo. Cuore e denari. Chiusura. Qua stiamo chiacchierando, come dire, a microfoni spenti. Non ho fatto nessun danno, no, Nicoletta? Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. 800 24 00 24, invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci, perché oggi il tema è particolarmente interessante per i giovani tra i 18 e i 34 anni e per i genitori di quei giovani che spesso, per tante ragioni di cuore e di denari, devono restare a casa. Essere e benessere. Voglio andare a vivere in campagna, non sarebbe, Deborah, una brutta idea? Per niente, guarda, anzi, diciamo che è un po' un obiettivo che noi coltivo, vero? Andiamo io e te tra qualche anno. Ma adesso intanto andiamo in campagna, in particolare vicino ad Arezzo, e in linea con noi c'è Lorenzo Rizzi, che con suo fratello gemello Francesco lavora in campagna. Ciao Lorenzo, posso darti del tu perché sei giovane? Hai certo, sì, ciao, buongiorno. Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Grazie. Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? A cocco di pippa. Non le posso dire un proverbio di nascosto che subito se lo rivende. Dato che stiamo parlando di giovani che cercano lavoro anche in modo un pochino alternativo. Abbiamo in linea con noi Paolo Reboani, con cui parleremo anche di lavori artigianali. Insomma, impara l'arte e mettila da parte. Trend diversi rispetto a quelli un po' più noti, che sono la comunicazione, queste cose qua. Invece bisogna ritornare un pochino indietro a al passato, forse su qualche cosa, ma ne parleremo. Lorenzo, voi che cosa avete fatto? Questi gemelli, insomma. Ecco. Tanto sì, appunto, siamo due gemelli e la nostra storia è cominciata lavorativa, diciamo, è cominciata nel 2009, dopo che ci siamo, io mi sono laureato nella quinquennale, mio fratello è tornato da un'esperienza di 2 anni in Australia, dopo che anche lui aveva terminato gli studi nel 2006 e abbiamo deciso di intraprendere la carriera agricola. Che fortunatamente noi già avevamo un'azienda agricola che nostro padre aveva comprato nell'88, che poi successivamente nostro fratello Maurilio aveva continuato questa attività, e quindi noi ci siamo ritrovati con questa azienda e dopo gli studi abbiamo insomma deciso di intraprendere questa avventura che insomma è dura, ma dà insomma anche le sue soddisfazioni e dà dei buoni risultati, insomma basta avere molta forza di volontà e voglia di fare, insomma. Senti, ma Lorenzo, i vostri amici che cosa, come l'hanno presa, che cosa vi hanno detto? I nostri amici ci hanno sostenuto, insomma, perché diciamo che molti amici hanno fatto il nostro percorso, lo stesso percorso di studi, e non tutti diciamo sono stati fortunati come noi, nel senso che si sono ritrovati nella situazione che si ritrova oggi l'Italia, quindi con grosse problematiche nel cercare il lavoro, e quindi chi ha trovato in un altro campo, chi è dovuto andare all'estero. E invece voi siete tornati alla terra, diciamo così. Noi siamo tornati alla terra, sì, abbiamo preso questa strada che insomma dovrebbe essere anche un po' una strada normale. Lo sa che questa è una raccomandazione, Lorenzo, che fa anche per esempio un personaggio in questo momento molto noto, che è Oscar Farinetti. Lui porta il nome del Made in Italy agroalimentare in tutto il mondo. Io ho incontrato un paio di settimane fa ad un convegno e ha detto proprio i ragazzi devono ricercare, se possono, appezzamenti di terreno e, come dire, ridare un po' questo lustro anche al nostro paese, che è già molto conosciuto in tutto il mondo per i nostri prodotti. Quindi sono certa che applaudirebbe a questa vostra iniziativa. Mi è piaciuto molto poi quando Lorenzo ha utilizzato il termine carriera agricola, perché sì, non l'avevo possiamo messo. Possiamo chiamarla così, dai. Infatti. Grazie, ringraziamo Lorenzo. Avevi qualcos'altro da chiedergli? No, assolutamente. Complimenti Lorenzo, tra l'altro, questa è proprio una svolta di vita, perché esatto. Lorenzo, sicuramente. Non è che si fanno le 8 ore di lavoro lì e poi si va a casa, no? No, non si fanno, si alza presto, bravo. Si lavora tanto, però le soddisfazioni sono altrettanti, insomma. Grazie, in bocca al lupo, bocca al lupo Lorenzo, per tutto. Grazie, anche grazie a Francesco. A tra l'altro, la loro esperienza diventa anche una mostra fotografica. Ah, accidenti, vedi? Si intitolerà proprio Tornare alla Terra, una mostra fotografica che si apre ad Arezzo oggi, finisce il 23. Ecco, guarda, allora, visto che siamo in Toscana, io ti racconto anche invece che i signori di Italia Lavoro, che adesso sentiremo il presidente Paolo Reboani, organizzano invece un festival del lavoro che tutti gli anni a luglio si tiene per 3 giorni a Montepulciano, un'esperienza straordinaria alla quale invitiamo tutti i ragazzi ad andare ad annusare un po' quello che succede. Reboani, è così? Eccoci, sì. Almeno è stato così nei 2 anni passati e dovrebbe essere così anche, ci auguriamo, l'anno prossimo. Quindi è un'occasione molto importante per cercare di parlare di lavoro alla gente, al cittadino comune, insieme a tutti coloro che fanno lavoro, perché non dimentichiamo che lavoro viene fatto non tanto dalle agenzie come può essere Italia Lavoro o dalle regioni, che pure sono attori importanti, ma viene fatto dagli imprenditori. Certo. Quindi il punto fondamentale è parlare con loro e far parlare loro con la gente. Claudio su Twitter ci scrive: la difficoltà di trovare un lavoro per mio figlio, un ragazzo difficile che ha lasciato l'università a 9 esami dalla laurea. Allora io al dottor Reboani vorrei chiedere di rivolgersi ai genitori all'ascolto o ai giovani che sono in cerca di lavoro. Nel programma si parla anche delle botteghe di mestiere. Come tornare, dottor Reboani, a diventare il ragazzo di bottega, e quali prospettive offre questa chance? Ma allora, subito una precisazione per dire che il programma che noi abbiamo costruito in questi anni si è chiuso e in questo momento noi stiamo facendo le selezioni dei giovani insieme alle aziende per l'ultimo ciclo. L'esperienza delle botteghe ci auguriamo possa riprendere adesso nell'ambito del nuovo programma Garanzia Giovani, che si aprirà a breve da parte del governo e delle regioni. Per quanto riguarda, quindi questo progetto sarà, spero, preso, perché è stata una buona pratica e una buona esperienza. Tra l'altro, Presidente, guardi, mi scusi se la interrompo, così lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, il progetto si chiama AMVA, Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale. Ecco, che cosa avete fatto e cosa state facendo? Quello è il progetto più ampio, che si articolava su tre azioni, la promozione dell'apprendistato, il passaggio di impresa e le botteghe. La cosa più interessante e più sperimentale è stata questa delle botteghe, che ha permesso di mettere insieme la vocazione territoriale dei nostri sistemi produttivi rispetto alle esigenze dei giovani che non trovavano lavoro. Il tema bottega di mestiere è stato evocato, diciamo, come messaggio, ma in realtà noi abbiamo cercato di recuperare le vocazioni manifatturiere e artigianali delle piccole e medie imprese in queste aree, mettendo in contatto le imprese con i ragazzi. In moltissimi casi i ragazzi che hanno fatto i tirocini sono rimasti anche, è stato loro offerto un contratto di apprendistato, un contratto a tempo determinato, in alcuni casi addirittura un contratto a tempo benissimo indeterminato. Poi la salutiamo, Presidente, solo per raccontarci quali sono i mestieri che avete rispolverato, perché io so che per esempio vi siete dedicati anche alla Mia Castelfidardo e alla fisarmonica. Ma appunto abbiamo soltanto fatto quello che le realtà produttive richiedevano, ecco. Cioè, lei sa che c'è una indagine che si chiama Excelsior, che dice che ci sono oltre 100.000 posti vacanti e lasciati liberi. Abbiamo parlato con le imprese e visto quali erano le realtà che avevano bisogno. Si va dall'arte orafa alle fisarmoniche, dai pasticceri e dai panettieri alle industrie tessili, dall'alto di gamma alle industrie di servizi. Quindi dipende dalle realtà territoriali, perché il mercato del lavoro italiano è territoriale. Bisogna andarla a cercare. Benissimo. E allora, per tutte le informazioni, se volete sapere qualcosa di più su questo progetto, andate sul sito di Italia Lavoro. Il lavoro bisogna andarselo a cercare, essere flessibili, cercare di guardare, di conoscere bene il proprio territorio, un po' come ci hanno insegnato anche l'esperienza di Lorenzo e Francesco Rizzi. Abbiamo Gianluca che ci chiama da Novara, che ci può aiutare in questo. Forse a volte il lavoro c'è, ma noi facciamo finta, non lo accettiamo, non ci piace tanto. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Sappia che alla fine di questa trasmissione le arrivano due curriculum, il mio e di Nicoletta. Se ha bisogno un po' di manovalanza, noi qua ci siamo, ci dica. Mi prendo. No, noi siamo in una situazione molto opposta da quella che sento raccontare. Noi abbiamo un'azienda agricola, costruita da me e da mia moglie. Io arrivo dalla dirigenza tessile, mia moglie è al tessile anche lei. Abbiamo creato un agriturismo, noi non riusciamo a trovare camerieri, non riusciamo a trovare gente addetta alle stalle, ai campi. Ai campi e alle stalle solo esclusivamente extracomunitari e si presentano l'80% con i documenti non in regola. Stata un'avventura trovare due persone da inserire nella struttura in regola, perché noi abbiamo tutto in regola. Camerieri introvabili, ragazzi che vengono a chiedere lavoro a 25-30 anni, accompagnati dai genitori, con i genitori che presentano i figli, è mio figlio in alcuni casi. Questo lavoro non lo può fare, cosa vogliono fare gli impiegati? Gianluca, posso chiederle qual è, anche, mi scusi se sono così brutale, ma è un tema importante. Lei è la donna di denari, deve andare al sodo. Ci vado giù dritta. Quanto li paga questi? Perché sempre tornando ad Italia... Allora, noi li abbiamo tutti in regola e portano a casa stipendi superiori alle 1.000 euro. Medialmente dalle 1.100 alle 1.300 euro al mese. Che non ci sembra... esatto. E quindi con questi soldi una persona potrebbe vivere da solo, uscire dalla famiglia e crearsi una vita. Imparare anche un mestiere, Gianluca. Guardi, una cosa molto importante che vorrei sottolinearvi: noi lavoriamo molto con lo slow food, quindi con Pollenzo, l'università. Vengano da noi stagisti laureati per fare questi stage, per capire come funziona l'agriturismo, come funziona l'attività agricola e soprattutto esteri. Quindi noi abbiamo tantissimi americani, adesso assumeremo un ragazzo ecuadoregno, David Mendoza, un ragazzo fantastico, e non riusciamo a trovare ragazzi italiani perché si lavora la sera, si lavora il sabato, si lavora la domenica e gli orari devono essere flessibili. Guardi, Gianluca, non poteva essere più chiaro con la sua testimonianza. Insomma, intanto verremo a trovarla con Deborah, non prima si cosa, sa mai, no? Parleremo molto bene del suo agriturismo e invoglieremo i nostri amici a venire a lavorare, magari qualcuno che ha qualche figlio in età da candidato. Grazie a Gianluca da Novara, con chi commentiamo? Ma con il nostro commentatore preferito sui temi del rapporto genitori-figli, Alberto Pellai, è tornato con noi. Alberto, buongiorno di nuovo. Buongiorno ancora. Cosa ci suggerisce l'esperienza di Gianluca? Ma direi che questa è poi proprio un po' la conseguenza, no, di un eccesso di protezione e di poca invece esplorazione. Il fatto che come genitori siamo molto molto preoccupati, direi quasi esclusivamente preoccupati che i nostri figli non abbiano mai un problema, non corrano mai un rischio, non si mettano mai nei pericoli, siano proprio in qualche modo sicuri al 100%, poi fa entrare in una sorta di copione dove la vita in qualche modo deve garantire tanti diritti e pochi doveri, questa soprattutto direi per le nuove generazioni, cioè il fatto che noi abbiamo curato così tanto la dimensione del piacere, li abbiamo accompagnati in ogni luogo loro ci chiedessero, li abbiamo portati in discoteca a mezzanotte, poi siamo andati a riprenderli alle 4:30 di notte, tutto questo spesso nel copione di vita dei nostri figli è diventato una sorta di diritto inalienabile, garantito, tutelato dagli adulti che magari con le occhiaie, due borse sotto gli occhi rinunciavano a dormire pur di far divertire i figli. E quando entri poi in un copione dove non c'è più il piacere ma c'è il dovere, cioè c'è da scrutturare un'identità adulta, stare dentro un principio di realtà e non un principio di piacere, i nostri figli sono confusi e persi, come la vita mi sta chiedendo questa fatica che assolutamente per me non è prevista, no? Io riesco a funzionare solo in un mestiere o in un lavoro che mi fa continuare a essere il bambino e l'adolescente che sono stato. Andiamo a sentire Cristiana, ci chiama da Milano all'800240024, oggi non c'è la nostra barriera rosa, no, ma ce ne sono, altro che, no? C'è una squadra, di tutto rispetto. Che vogliamo salutare? Come no, Nicole, Sabrina e Giulia, grazie per sopportarci tutti i giorni, noi e tutta la squadra dei conduttori di Radio 24, ma anche loro stanno accogliendo, come sempre in maniera molto sensibile, tutti gli ascoltatori che vogliono mettersi in contatto con noi. E quindi potete continuare a chiamarci. Cristiana, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Come siete simpatiche voi due. Grazie. E lei ha un accento francese magnifique. Purtroppo mi faccio riconoscere subito. Ci dica. Beh, quello che ha detto il vostro esperto è la base di tutto, davvero. Io vedo la mentalità nostra francese. Io a 16 anni ero già fuori, sono andata via come babysitter in Germania, in Italia. Volevo girare il mondo per imparare le lingue, per darmi una possibilità in più. Il problema è che qua hanno tutto, ancora prima che lo chiedono. Sembra che i genitori pensano che rendere felice i figli sia sacrificarsi loro. Ma c'è un detto che dice meglio che piangano loro da piccoli che noi da grandi. Ce lo dica figli. Cristiana, mi scusi, me lo dica in francese. Alors, c'est mieux qu'ils pleurent quand ils sont petits que nous quand on est grand. È proprio bello l'italiano, non so. Quindi Cristiana, grazie. Lei ha fatto un po' una tirata d'orecchie alle mamme italiane, quindi anche a me, che però insomma devo dire che sei brava. Insomma le mamme italiane le abbiamo un po' bistrattate, quindi ci avete un po' bistrattato in lungo e largo, Alberto, in questa trasmissione. Devo dire che insomma abbiamo anche tanti lati positivi e che comunque stiamo cercando negli ultimi anni di far andare questi figli, insomma, trattenerci dall'essere troppo chiocce. Francesca, per esempio, l'ha fatto dalla provincia di Bergamo. Dove è andato suo figlio? Francesca, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, complimenti. Senta, io vorrei esporre l'esperienza che ha fatto mio figlio. Al terzo anno di università ha voluto fare un'esperienza di Erasmus nella Repubblica Ceca. Ha imparato il ceco, gli corsi erano tutti in inglese. Quando è poi ritornato ha voluto frequentare un corso in Francia mentre frequentava l'università, alla Politecnico, ha imparato tantissime cose. Nell'inoltrare la richiesta per la tesi ha voluto espandersi, ha detto la inoltro in Germania. Gli hanno risposto via mail di collegarsi telefonicamente. Un'ora e mezza di colloquio in inglese, sì? E quindi le hanno detto guarda, se riceverai entro 15 giorni una risposta via mail. Ed è arrivata. Certo, è andata, sì? È stato assunto 2009. Insomma, Francesca, no. Questo figlio la rende veramente piena d'orgoglio e fa bene, ma ci insegna che bisogna essere un pochino intraprendenti. Esatto, Alberto, insomma, la morale della storia del figlio di Francesca è questa. È la prima regola che ci ha dato anche Bonardo prima di G-Group. Sì, Alberto. E direi che è una regola tra le altre cose che i figli in molti casi in questi anni stanno insegnando ai genitori. Il progetto Erasmus citato dalla signora è proprio quel progetto dove spesso i figli entrano proprio col loro desiderio di esplorazione, capiscono che è un'occasione straordinaria non solo per lo studio e la professione ma anche per la vita, perché la distanza in automatico li emancipa dalla famiglia in cui sono stati cresciuti. Molti genitori faticano però a accettare per esempio il progetto Erasmus dei figli, tanti sono molto molto a sostegno, ecco, tanti capiscono che questa è un'opportunità straordinaria da non lasciar perdere, ma tanti altri cominciano a fare piccoli ricatti, piccoli commenti o proprio nelle conversazioni familiari il concetto che lasciano un figlio è un Erasmus, ma non mi puoi fare questo. Senti, allora insomma, perché la sindrome da nido vuoto di cui abbiamo parlato in apertura, che colpisce molti genitori e che noi ci auguriamo, considerato il momento, che ne colpisca sempre di più, perché si può vincere questa sindrome da nido vuoto. È naturale che quando i figli vanno la casa sembra vuota, ma il cuore resta pieno, Alberto. Sì, e poi è naturale che come genitori, credo l'abbiamo detto anche tante volte ai tempi di questa casa non è un albergo, arriva un momento in cui noi dobbiamo stare alla finestra e vedere dal davanzale i nostri figli che se ne vanno e li provare tristezza e orgoglio. E allora ancora qualche minuto di tempo per chiacchierare con noi sul bellissimo tema di questa mattina, 800 24 00 24. Sai che curiosità mi ha suscitato Mauro da Udine? Che voglio sentire. Mauro, lei fa il calzolaio? Mauro è caduto. È caduto. C'era anche un'altra mamma dalla Sicilia, adesso non mi ricordo la città, che voleva raccontarci che suo figlio 16 anni fa ha aperto un panificio, poi sono arrivate le liberalizzazioni di Bersani e quindi tanta concorrenza e adesso anche quel mestiere è in difficoltà. Io suggerisco di puntare molto sulla qualità del prodotto, di non fare il pane uguale agli altri, quindi questo credo che sia un po' il tratto vincente anche delle aziende che apparentemente possono sembrare un po' tutte simili alle altre. In realtà anche nel pane, Nicoletta, c'è la differenza, no? Assolutamente. Tra l'altro volevo, ma lo stai vedendo anche tu dai messaggi, che l'appello del nostro ascoltatore Gianluca da Novara che cerca un cameriere o delle persone che lavorino nei campi e che non riesce a trovare nessuno ha suscitato molto interesse, diviso anche gli ascoltatori dicendo ma sei lontano, perché molti vogliono in nero, io l'avrei cercato. Insomma, il lavoro, i nostri esperti dicono che ce n'è poco, ma bisogna andare un po' a cercarlo e prepararsi, come abbiamo detto anche con l'opportunità che ci ha raccontato il presidente Paolo Reboani di Italia Lavoro. Benissimo, allora non so se non so, ma sono fra 20 secondi dobbiamo chiudere la trasmissione. Qua io mi stavo già inventando altre domande da fare al nostro Alberto Pellai, che comunque torna con noi nella trasmissione di domenica, giusto? Assolutamente. Esatto. Benissimo. Alberto. E noi salutiamo Alberto, ma salutiamo Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi, Marco Lombardo e da qualche giorno anche Camilla Tomadini che ci aiuta in redazione a preparare tutte queste bellissime scalette che vi proponiamo ogni giorno. E voi continuate a scriverci, perché noi chiudiamo ma siamo aperti. Esatto. Come dire. E domani un po' di suspense, partiamo con una nuova straordinaria avventura, per cui non mancate all'ascolto di Cuore e Denari.